Ad alta voce. Tommaso Ragno legge Il Monaco di Matthew Lewis nella versione di Antonin Artaud. Traduzione di Ginevra Bompiani e Giorgio Agamben. Il marchese e Lorenzo camminavano veloci. La notte era scesa completamente. Tra pochi minuti sarebbero entrati a Palazzo Las Eternas. In tutti e due vi era la sensazione acuta della difficile posizione in cui si trovavano. Il marchese si sforzava di richiamare alla memoria tutte quelle circostanze che potevano dare a Lorenzo un'impressione meno sfavorevole della sua relazione con Agnese. Lorenzo si trovava, se è possibile, in un imbarazzo anche maggiore, perché non volendo nuocere agli interessi di Antonia, si sentiva in dovere verso di lei di non precipitare le cose. Decise così di ascoltare senza aprir bocca le spiegazioni di Don Raimondo. «Prima di cominciare, permettetemi di chiedervi la vostra parola d'onore, che mi ascolterete con pazienza e senza prevenzione. L'avete. Non saprei erigermi a giudice di una sorella che amo teneramente, né d'altra parte ho mai avuto un amico che mi fosse più caro di voi. Oltretutto, in questo momento, voi potete rendermi un grande servizio in una faccenda che mi sta molto a cuore e desidero troppo ardentemente che riesca, per non passare sopra a tutto quanto non sia troppo chiaramente contrario all'onore. Come posso dirvi quale gioia sarebbe per me poter essere utile al fratello della mia cara Agnese? Dimostratemi che posso accettare un favore da voi senza prevaricazione e vi giuro che a nessuno al mondo lo chiederò più volentieri». La tensione tra loro si era un po' sciolta e quando furono comodamente sprofondati in due larghe poltrone, il marchese pose a bruciapelo a Lorenzo questa domanda: «Avete mai sentito parlare da vostra sorella di Alfonso d'Alvarado?» «Mai, ma si può dire che siamo sempre stati separati. L'ho rivista soltanto 2 anni fa, quando ho deciso di entrare in convento. Fino a quel momento aveva sempre vissuto presso una nostra zia in un antico castello tedesco. Ma di Alfonso d'Alvarado, prima che io lo nominassi, nessuno vi aveva segnalato l'esistenza?» «Permettete, al contrario, so che un avventuriero che portava questo nome era riuscito a introdursi al castello di Lindenberg presso mia zia e aveva saputo entrare nelle grazie di mia sorella al punto da persuaderla a lasciarsi rapire da lui. Ma prima di attuare questo piano, venne a sapere che le terre che credeva fossero di proprietà di Agnese appartenevano in realtà a me. Così, il giorno della fuga, scomparve e non restò ad Agnese che seppellire in fondo al convento la sua delusione. Mia zia, a cui devo tutti i particolari della storia, aggiungeva che questo avventuriero si spacciava per mio amico e mi chiedeva se lo conoscessi. Naturalmente risposi di no. Non immaginavo allora che Alvarado e il marchese della Las Eternas fossero una sola persona. Ma bisogna dire che il ritratto che mi si faceva del primo non aveva molto a che vedere con quel che sapevo del secondo. Come riconosco in questo tutta la malignità di Doña Rodolfa? Non c'è una parola del racconto che non riveli un aspetto della sua falsità, della sua malizia, del suo talento a diffamare quelli che ha giurato di perdere. Perdonatemi, Medina, di parlare con tanta libertà di una vostra parente, ma quando saprete la mia storia, la sua duplicità nei miei confronti vi apparirà anche troppo chiara e vedrete che le mie accuse non sono che l'espressione della più spietata verità». E il marchese cominciò il suo racconto. Storia di Raimondo, marchese della Las Eternas. Ascoltatemi. So per esperienza, mio caro Lorenzo, quanto siate generoso e attribuisco soltanto all'ignoranza in cui vi hanno tenuto delle vicende di vostra sorella e mie l'ingiusta severità con la quale ci avete giudicato in un primo momento. Se foste stato tenuto al corrente, a quali disavventure Agnese e io non saremmo sfuggiti. Eravate in viaggio quando io la conobbi, e data l'abilità con la quale i nostri nemici le nascondevano i vostri indirizzi successivi, le era impossibile chiedervi per lettera protezione e consiglio. Subito dopo la mia partenza da Salamanca, dove voi siete invece rimasto un altro anno, cominciai un lungo viaggio di studio per il quale non mi mancarono né appoggio né suggerimenti. Traversai una dopo l'altra le province francesi, entrai nelle Stamberg come nei castelli e mi fermai un po' a Lunéville. Nel cortile del Leone d'Argento notai un magnifico equipaggio intorno al quale si affaccendavano molti domestici in splendenti livree. Una donna di mezza età, ma di aspetto imponente, giaceva sprofondata nei cuscini di una carrozza e due cameriere le facevano vento snervandola di moine. La bellezza ancora florida di quella donna mi colpì. Chiesi informazioni all'albergatore e seppi che stava andando, come me, a Strasburgo per incontrarvi il marito e che da lì dovevano proseguire insieme per il loro castello in Germania. Mi rimisi in viaggio. La sera scendeva e i miei cavalli andavano di gran carriera. Ci addentrammo ben presto in un bosco per sentieri appena tracciati, senza per questo rallentare l'andatura. I rami spazzavano i vetri, scattando sempre più veloci. Non tardò a nascermi il presentimento di una catastrofe, e mentre mi domandavo che cosa avrei dovuto fare in tal caso, la carrozza si rovesciò con un orribile fracasso. Arrivammo, io e il postiglione, davanti alla capanna del boscaiolo, ghiacciati, intirizziti, rigidi dal freddo, quasi incapaci di parlare. Dalle basse finestre traspariva il chiarore confortante di un fuoco. Picchiammo alla porta come disperati, ma passò un bel po' di tempo prima che ci rispondessero dall'interno. E la porta si spalancò con un gran gracchiare di catenacci. Un uomo, grande e grosso, si spezzava in due a furia di saluti, ma in mezzo a tutta quella cordialità mi sembrò di vedergli brillare negli occhi una luce strana e si scusò di averci fatto aspettare per colpa dei bricconi che infestano i boschi a quest'ora. Al nostro ingresso si alzò una donna che presi per la moglie del nostro ospite, ma tanto il marito aveva un aspetto affidabile e modi primorosi, tanto l'aspetto di lei era invece arcigno e imbronciato. «Non restartene lì seduta e placida, Margherita», le disse il marito. «Non hai niente di meglio da fare. Andiamo, la zuppa, moglie, sbrighiamoci. Rianima il fuoco, prepara le lenzuola, lo vedi che il signore è morto di freddo». Con un balzo fu in piedi e si mise all'opera come una furia. In un batter d'occhio preparò la tavola, la cena e rianimò il fuoco. Fin dal primo momento la sua fisionomia mi era dispiaciuta. I suoi gesti erano bruschi, quasi strappati. Aveva la pelle gialla, le braccia magre. Tutta la sua persona spirava la costrizione, che pareva in contrasto con la confortevole bonomia, i modi aperti, franchi, amichevoli quasi, del marito. Mi era impossibile darle un'età, a tal punto la rigidità del suo atteggiamento e un'impressione di vecchiezza profonda che pareva emanare da lei erano in disaccordo con la giovinezza indiscutibile dei lineamenti. «Magari, prima di metterci a tavola, si potrebbe mostrare al signore la sua camera», disse Battista, il nostro ospite, girandosi verso i due figli che bruscamente erano entrati senza modo spalancando la porta. «Vi accompagno», disse rabbiosamente Margherita. Uno dei due figli scuoteva la pipa nel camino e ci voltava le spalle. L'altro mi precedeva già su per le scale, approfittando del fatto che nessuno di loro ci guardava. Margherita mi sussurrò all'orecchio con un tono diverso, mentre mi passava la candela, «Guardate le lenzuola». Poi si diresse vivacemente verso la porta. «I nostri due figli basteranno!» lanciò a quel momento il padre, alzando la voce per la prima volta. «Tu, moglie, hai fornelli!» E si piantò davanti alla scala che a gradini diseguali saliva penosamente al piano di sopra. Uno dei due figli era già a metà strada. Salì con sforzo, non osando girarmi verso la donna. Le sue singolari parole mi risuonavano nelle orecchie come un lugubre avvertimento. Mi fecero entrare in una camera dal soffitto basso, dove la finestra si apriva sulla campagna lasciando irrompere un'aria ghiacciata. Il più giovane dei figli andò a chiuderla, Poi uscirono tutti e due, lasciandomi ai miei pensieri. Li sentii ancora bisbigliare davanti alla porta, poi gli scricchiolii violenti dei loro passi mi fecero capire che erano scesi. Allora mi buttai sul letto e ne strappai via le lenzuola. Quel che vidi mi inchiodò di stupore. Benché una sola candela ficcata a casaccio nel primo candeliere capitato a tiro rischiarasse la scena, alla sua luce oscillante potei distinguere delle vaste macchie scure come di un liquido che avesse penetrato profondamente la stoffa delle lenzuola. Di colpo capii tutto, ma contemporaneamente misurai in pieno l'orrore della mia situazione e non vidi speranze nel vespaio dove ero così stupidamente caduto. Ero a questo punto delle mie meditazioni quando dietro ai vetri spuntarono bruscamente dei bagliori molto vivi e dal cortile salì un chiasso assordante. Sollevai le tendine e, alzandomi sulla punta dei piedi, vidi fermo davanti alla porta della capanna lo splendido equipaggio che avevo notato nel cortile del Leone d'Argento a Lunéville qualche ora prima. La signora che avevo già visto ne scese, aiutata dalle sue cameriere. Con infinita cautela aprii la finestra, adagio adagio mi piegai in avanti, ed ecco quel che udii. «Perché aspettare?» diceva una voce. «Sarebbe meglio sbrigarlo subito, visto che è solo lassù e non sospetta di niente. Poi andiamo nel fienile e facciamo fuori i domestici. Abbiamo il vantaggio della sorpresa e della decisione». Su questo il bisbiglio cessò. Io chiusi la finestra interizzito, ma il tepore della stanza non riuscì a rianimarmi. Ero solo, senza armi. La mia spada, le mie pistole, tutto era rimasto in fondo alla carrozza e quei banditi, certo, se le erano prese. Che fare? Non osavo muovermi, ma le dicevo insieme la mia imprudenza e l'ingiustizia del destino. Mi sentivo preso come un topo in trappola. Per un momento pensai di barricarmi in camera, ma l'immagine della signora della carrozza mi tornò alla mente. Udii la sua risata chiara da basso nella stanza comune e sentii che il mio posto era vicino a lei. Ridiscesi, ben deciso a non sfuggire al mio destino. Giù avevano cominciato la minestra. Trovai Margherita che condiva l'insalata e presi il posto che mi indicò con quei suoi occhi gialli e inquieti di cui sentii ora tutta la profonda pietà. Compativo l'incoscienza della baronessa che chiacchierava ininterrottamente, continuando a scherzare con le sue cameriere e a tempestare i banditi di occhiate e di arguzie. Quelli rispondevano alle sue facezie senza smettere di sorvegliarmi. Mi feci forza e cercai di sembrare gentile nel timore che un mio gesto o una mia parola dessero il via a una carneficina. Di quando in quando i miei occhi tornavano a Margherita. Sulle sue labbra errava un sorriso rigido che si poteva interpretare come un incoraggiamento a perseverare nella mia condotta, e capii che il momento del pericolo non era ancora arrivato. Fu allora che i banditi cercarono di addormentarci tutti con del vino mezzo avvelenato. La baronessa e le sue cameriere bevvero senza diffidenza. Lanciai di nascosto a Margherita uno sguardo d'angoscia. I suoi occhi mi risposero che, prima di tutto, bisognava non rifiutarsi di bere in modo da non dare per ora presa ai sospetti. È così almeno che interpretai la folla di pensieri che il suo sguardo allucinato mi trasmetteva. La baronessa e le cameriere russavano come dei carrettieri e io imitavo come potevo il sonno di un uomo completamente intossicato, ma i rantoli che uscivano dalla mia bocca tradivano molto più l'angoscia che il sonno. Sotto le palpebre sorvegliavo da una parte la porta dove erano usciti i due figli di Battista, che ora mi sorguardava con quell'aria insieme indifferente e sicura del fatto suo, del macellaio che valuta il peso in carne della bestia da abbattere. Dall'altra Margherita, che dritta a un angolo del tavolo mi faceva pensare al sangue che sta per schizzare dalla piaga. Il vento versò su di noi un suono prolungato di tromba e con un trepestio di zoccoli, chiaro come un fuoco a salve, una brigata compatta di cavalieri si fermò a pochi metri dalla capanna. Buttando uno sguardo rapido alla donna e a me, Battista si alzò di colpo e si diresse rapidamente verso un mobile che dai cassetti aperti scopriva un luccichio di armi. Margherita si segnò e, ergendosi con tutta la persona, con un gesto, mi disse che il momento era arrivato. Mi raccolsi su me stesso e mi gettai su Battista con la violenza della disperazione. Caddi sulla sua schiena come a cavallo e le mie mani contratte lo agguantarono saldamente alla gola. Quel peso brutale lo atterrò e lo disarmò la fulmineità del mio attacco. Rotolammo come bestie uno sull'altro, ma mentre ci dibattevamo, rapida come il pensiero, Margherita aveva afferrato un pugnale lasciato dal marito sul tavolo e precipitandosi su Battista glielo affondò ripetutamente nel cuore, senza esitare, finché non spirò. Dalla sua bocca sgorgava un sangue nero, ma senza uno sguardo per lui. La moglie aprì la porta e io, caricandomi come un pacco, la baronessa sulle spalle, mi slanciai nella notte dietro a Margherita. I cavalli dei briganti sbuffavano, legati con un gancio alla porta del fienile. Margherita ne inforcò uno. Io saltai su un altro col mio pacco e partimmo con la velocità che il mio carico permetteva. Il chiarore delle torce dei banditi ci illuminava la strada, prolungando all'infinito le ombre dei nostri cavalli. Un trambusto infernale sembrava regnare nel fienile e da ogni parte salivano le grida dei nostri domestici sgozzati. Fermarci, tornare sui nostri passi e soccorrerli sarebbe valso soltanto a perderci senza aiutarli. Rimorso, terrore, esaltazione, paura si mescolavano in me in una confusione indistricabile. Udii distintamente il galoppo di molti cavalli e poco dopo vidi sul pendio di una collina vicinissima una decina di foschi cavalieri che avanzavano allo scoperto. «Siamo perduti!» gridò Margherita. «Quelle canaglie ci hanno raggiunto!» «Avanti! Avanti!» risposi. «Sento il passo di cavalli che vengono dalla città!» Raddoppiammo i nostri sforzi e un momento dopo una folta schiera di cavalieri ci balzava davanti. Andavano di volata e ci avevano già quasi oltrepassati quando Margherita, voltando il suo cavallo, sbarrò loro coraggiosamente la strada. Il primo, che sembrava servire da guida, fermò di colpo il suo cavallo e, saltando a terra, «È lei! È lei!» gridò. «Fermatevi, signore, fermatevi! Sono sani e salvi! È mia madre!» Margherita si gettò con un urlo nelle braccia dello sconosciuto, coprendolo di carezze convulse. Un altro cavaliere, lasciando il gruppo, si fece avanti, pieno di ansia. «La baronessa di Lindenberg, dov'è?» domandò. «Non si trova con voi?» Scorgendola svenuta nelle mie braccia, si fermò col fiato mozzo. La sua immobilità gli aveva fatto credere in principio che fosse morta, ma poi si rassicurò sentendo battere il cuore. «Dio sia lodato!» esclamò. «Gli è sfuggita!» Tagliai corto al suo entusiasmo, mostrandogli i malfattori che guadagnavano terreno su di noi con tutta la velocità dei loro cavalli. Diede un segnale e immediatamente la piccola compagnia, che pareva in gran parte composta di soldati, fu in sella e mosse incontro a loro. Potei constatare allora quanto il vero coraggio sia incompatibile con il delitto. Non appena videro il drappello di soldati raccogliersi per attaccarli, I banditi si sparpagliarono, due o tre si diedero alla fuga, gli altri misero piede a terra e si lasciarono raccattare come dei cani. Si vendettero fra loro e quelli che erano stati presi ci indicarono dove potevamo trovare gli altri. Ci rivelarono tutti i loro nascondigli e al mattino il grosso della banda, circondato nel suo rifugio, era costretto a deporre le armi e ad arrendersi. Non uno riuscì a sfuggire e l'intera regione fu così liberata dalla piaga che la infestava. Volevo assolutamente guidare io i soldati fino all'infernale capanna dove avevo rischiato di lasciare la pelle e gliela feci visitare da cima a fondo. I cadaveri erano sempre lì, ma in fondo al finile, dissimulato sotto a un enorme mucchio di paglia, scoprimo un bambino di 4 o 5 anni che, prendendoci per dei nemici, disperato e tremante, cercava di fare il meno rumore possibile. Lo portammo con noi a Strasburgo, all'albergo dell'Aquila d'Austria, dove il barone di Lindenberg, sua moglie e Margherita ci aspettavano. La baronessa, quando tornò in sé e venne a sapere da quali pericoli l'avevo salvata, non pose limiti alla sua riconoscenza. Volle assolutamente che li accompagnasse suo marito e lei nel loro castello di Baviera. Così, una settimana più tardi, Teodoro, il barone, sua moglie e io partimmo per Lindenberg. Ora, Lorenzo, conoscete i mezzi di cui si servì l'avventuriero Alfonso d'Alvarado, marchese di Las Eternas e vostro fedele amico, per introdursi nel castello di Lindenberg, disse Don Raimondo, e potete giudicare di conseguenza del credito che meritano le altre affermazioni di vostra zia.